Ed eccoci in onda. Siamo purtroppo siamo qui a parlare di questa vicenda per l'ennesima volta. La scrittrice sociologa Pinar Selek subisce nuovamente, dopo ormai 25 anni, subisce nuovamente diciamo un processo farsa, un processo assolutamente fondato sul nulla. Viene notificato a Pinar Selek il 6 gennaio di quest'anno un mandato di cattura internazionale a Pinar, in realtà al suo avvocato ovviamente, per cui il processo che il quinto processo che verrà diciamo istituito contro Pinar e che si terrà il prossimo marzo ad Istanbul, diciamo viene preceduto addirittura da una richiesta di arresto. I vari comitati che in questi 25 anni si sono creati e hanno sostenuto Pinar in tutta Europa, che speravano di non doversi più diciamo rimettere al lavoro, di non doversi più incontrare per questa vicenda, in realtà purtroppo appunto sono in movimento, sono diciamo all'opera per attirare l'attenzione internazionale su questa nuova diciamo questa nuova inizio di persecuzione nei confronti di Pinar. Siamo qui appunto con una rappresentante del comitato italiano che appunto ci racconterà un po' quello che si sta diciamo che si profila davanti nei prossimi mesi e anche gli appuntamenti a cui possiamo tutte e tutti diciamo partecipare per contribuire. Intanto ciao. E ciao, buongiorno a tutte e tutti. E allora sì, come si diceva, il comitato per insomma di solidarietà a Pinar Selek, che diciamo si era attivato per la prima volta, si era costituito nel 2011 e che e appunto nel 2014 con l'assoluzione, con l'ennesima assoluzione che Pinar aveva avuto, sperava insomma di aver concluso le sue attività e invece eccoci, ci ritroviamo appunto a doverci riconvocare con una certa urgenza appunto, e perché e appunto come si diceva Pinar che è una nostra compagna, insomma oltre a essere appunto una scrittrice, una sociologa, è una femminista antimilitarista e che non ha mai smesso di lottare appunto sia per le donne, sia per le richiedenti asilo, sia appunto per insomma sempre anche appunto in solidarietà appunto con il popolo curdo. E è stata cioè diciamo è di nuovo al centro di questa persecuzione. Io voglio iniziare il mio intervento leggendo le sue parole, e lei ha fatto girare questa lettera e ci dice: cari amiche e cari amici, ho appena letto la decisione della Corte Suprema che mi condanna non soltanto alla prigione a vita, ma anche a una persecuzione senza fine. È una falsa decisione che si appoggia su dei falsi argomenti e su delle prove falsificate. Questo processo continua da 25 anni, la metà della mia vita. E io so che è uno degli indicatori del male organizzato che è radicato in Turchia da molto più tempo. Riflette allo stesso tempo la continuità del regime autoritario in Turchia e le configurazioni dei dispositivi repressivi. Questa sentenza iniqua, fondata su dei documenti falsificati, non è che un pezzo degli oscuri dispositivi utilizzati prima delle elezioni. Qualche giorno prima degli omicidi dei curdi a Parigi, io scrissi questo: l'anno 2023 è prevedibile. In occasione delle scadenze elettorali vedremo delle nuove esplosioni o degli attentati organizzati da mani invisibili. Le inchieste non finiranno mai, come il complotto di cui io sono vittima. Ho spiegato come in Turchia il governo in difficoltà scateni la sua violenza attraverso una strategia di caos e di tensione che si nutre dell'oscuro repertorio politico del paese. Io sono un piccolo punto nel grande quadro della resistenza che si paga a caro prezzo. Fino ad oggi ho resistito per non sottomettermi alla dominazione, ma anche davanti alla repressione, per continuare a creare, a lavorare sulle mie ricerche, a riflettere profondamente, in modo strutturato, e anche ad agire e a vivere come una formica festante. Io ve lo prometto, non mi arrenderò. Ti bacio, Pinar. دخينن ادي قلم قشو نجر كتب نار شرخا جهان زور قريد انا مر زور جنشو نبش بر دخينن ادي قلم قشو نجر كتب دغزن بمر E come diciamo avevi Pinar stessa racconta nella lettera che abbiamo, quindi attraverso le sue parole dirette, nella lettera che hai appena letto, questa vicenda sono 25 anni che dura, questa accusa assolutamente infondata, insomma in realtà di un attentato che si è dimostrato ampiamente non essere un attentato ma piuttosto una fuga di gas che aveva creato un'esplosione al mercato delle spezie di Istanbul, e per la quale appunto lei apprende una volta già diciamo, in prigione apprende di essere accusata, e quindi questa sostanzialmente è una base totalmente inventata, totalmente costruita ad hoc per perseguitare Pinar, così come succede per altre vicende. E come lei ricorda nella lettera, in realtà questo momento lei lo prevedeva, se lo aspettava, se non direttamente ma comunque con forme simili, perché appunto l'imminenza delle elezioni scatenerà, come lei stessa aveva preannunciato prima che accadesse, scatenerà la violenza, il caos, il tentativo di reprimere qualsiasi cosa e quindi anche di riaprire vicende che sembravano chiuse. Sì, solo una piccola contestualizzazione in più, che Pinar appunto quando è stata arrestata nel 1998 lei stava conducendo una ricerca sulla resistenza curda e anche sulle possibilità di soluzione diciamo del conflitto, e lei appunto aveva un percorso femminista e antimilitarista molto, molto forte, e quindi chiaramente cioè nel corso di quella ricerca lei aveva intervistato militanti curdi, e questo probabilmente è stata una delle scuse diciamo per le quali è stata arrestata. Tra l'altro gli era stato anche chiesto appunto di poi quando appunto era in prigione, sì, di denunciare, di raccontare, e Pinar ha subito delle torture tremende appunto nel periodo in cui è stata in carcere, e poi è stata rilasciata nel 2000, perché già appunto 2 anni dopo era chiaro insomma con le prime udienze del processo che non c'era nessuna responsabilità da parte sua, cioè questa bomba in realtà non c'era mai stata, e però la persecuzione contro di lei continua, perché come lei appunto dice, in realtà Pinar non ha smesso di lottare neanche un giorno, cioè lei è andata via dalla Turchia, è stata prima in Germania, poi esiliata in Francia, dove ha avuto per fortuna la cittadinanza, quindi lei la cittadinanza che ha avuto mi sembra nel 2017, dopodiché purtroppo la cittadinanza francese non la protegge del tutto da questa richiesta di estradizione, e quindi è importantissima la nostra solidarietà massima, dare il più possibile voce a quello che sta accadendo per cercare di fermare appunto quest'ennesimo processo, e proprio per questo noi come Comitato Italiano pensavamo di rivederci, e comunque allargando ovviamente l'appuntamento a tutti quelli che volessero partecipare, e ci vedremo lunedì 23 gennaio alle 20 al Nido di Vespe in via dei Ciceri 131, e poi insomma cercheremo di capire quali appuntamenti e quali iniziative possiamo mettere in campo, e poi ci sono anche appunto delle iniziative già lanciate dai comitati di solidarietà in giro per l'Europa, e in particolare insomma l'intenzione di partecipare il più possibile in massa all'udienza del appunto che ci sarà il 31 marzo a Istanbul. Bene, noi diciamo oltre a darvi queste notizie e a raccontarvi quello che sta accadendo, volevamo anche riflettere insieme in collegamento insieme a due ospiti che sentiremo fra poco. Una è Lea Nocera, docente di lingua e letteratura turca all'Università Orientale di Napoli, che appunto ci potrà anche in maniera puntuale raccontare la situazione che accennava Pinar nella sua lettera, di cui parlavamo adesso, attuale in Turchia, quindi anche diciamo la base di quello che sta accadendo, e con Tiziana Triana, editrice di Fandango e editrice appunto di Pinar Selek in Italia, quindi insomma donne che conoscono la situazione di cui stiamo parlando e Pinar stessa. A fra poco. allora torniamo in onda. Questa è Radio Onda Rossa 87.9 sulle frequenze medie. Come sapete, stiamo parlando di un nuovo processo aperto a carico di Pinar Selek. Nuovo, in realtà è sempre lo stesso che viene annullato e riproposto, con l'aggravante di un mandato di arresto internazionale che è scattato a suo carico. Intanto che appunto ci prepariamo ad ascoltare anche dei contributi telefonici fra qualche minuto, volevamo leggervi il comunicato lanciato dal Coordinamento Europeo dei Collettivi di Solidarietà con Pinar Selek, che è uscito appunto il 16 gennaio, in cui si racconta un po' anche questa vicenda, ma anche quello che il coordinamento sta cercando di fare. Il 21 giugno 2022 l'agenzia di stampa turca ha riportato la notizia dell'annullamento della quarta sentenza di proscioglimento per Pinar Selek, pronunciata dalla Corte Suprema il 19 dicembre del 2014 presso il Tribunale Penale di Istanbul. Prima di allora Pinar Selek era stata processata altre 3 volte e in tutte le occasioni assolta, vittima di una persecuzione politico-giudiziaria iniziata 25 anni fa e ancora in corso. Dopo averla imprigionata e torturata per le sue ricerche sociologiche sui curdi, il potere turco ha deciso di farla diventare una terrorista, fabbricando tutte le prove per farla passare come esecutrice di un attentato. Nonostante sia stato stabilito che l'esplosione al mercato delle spezie di Istanbul del 1998 non è stata dolosa ma accidentale. 6 mesi dopo l'annuncio a mezzo stampa dell'annullamento dell'assoluzione, la decisione della Corte Suprema è stata finalmente comunicata agli avvocati di Pinar Selek lo scorso 6 gennaio del 2023 dalla Corte di Assise di Istanbul. Questi 6 mesi di insopportabile attesa e di tortura psicologica per Pinar Selek diventano una parodia di giustizia. Nei confronti di Pinar è stato emesso un mandato di cattura internazionale richiedendo il suo arresto immediato. Questa decisione è stata presa dal Tribunale Penale di Istanbul ancora prima che i giudici di questa giurisdizione si fossero pronunciati in occasione della prima udienza, che è fissata il 31 marzo del 2023. Queste misure grottesche dal punto di vista giuridico e particolarmente gravi per la loro portata e per le conseguenze che hanno su Pinar Selek sono state prese in un contesto in cui il potere turco sta limitando sempre più le libertà e moltiplica le violenze contro le minoranze e chi si oppone politicamente a questo stato di cose, in particolare contro il popolo curdo, sia in Turchia che in altri paesi. Le imminenti elezioni politiche in Turchia inducono ogni sorta di diversivo politico e di manipolazione. I collettivi di solidarietà con Pinar Selek rifiutano di assistere a questa farsa giudiziaria, lasciando che la scrittrice e sociologa continui a essere ostaggio di una politica iniqua. Rifiutano anche di vederla come la vittima collaterale della politica compiacente dei paesi europei verso il regime autoritario e liberticida che imperversa in Turchia. Per questo chiedono a tutte e tutti i parlamentari e responsabili politici che negli ultimi mesi hanno espresso il loro sostegno a Pinar Selek di agire con forza presso il governo affinché le venga garantita tutta la sicurezza, il governo francese chiaramente, affinché le venga garantita tutta la sicurezza e la protezione che lo Stato francese deve a una delle sue compatriote. La nazionalità francese di Pinar Selek non basterà a proteggerla. Forte del sostegno di molte personalità dell'Accademia e della cultura, i collettivi di solidarietà rinnovano la loro richiesta al Presidente della Repubblica affinché esprima il suo sostegno fermo e incondizionato a Pinar Selek e indirizzi una protesta ufficiale verso il potere turco. I collettivi si appellano infine a amiche e amici di Pinar, alle artiste e agli artisti, universitari, universitari, alle militanti e ai militanti, perché moltiplichino gli sforzi per estendere le iniziative a sostegno di tutte le vittime del regime turco e a preparare delle nutrite delegazioni che possano andare il prossimo 31 marzo a Istanbul per esigere verità e giustizia per Pinar Selek. Coordinamento europeo dei collettivi di solidarietà con Pinar Selek. dar hejiro ke gham revino ke na dar hejiro ke gham revino Jiramen Allora, intanto volevo, diciamo, annunciare la musicista curda che stavamo ascoltando in sottofondo, Aynur Dogan, anche lei, insomma, con il suo album nel 2004-2005, che fu proibito in Turchia, insomma, anche lei una vicende alle spalle, e comunque una rappresentante e una cantora del popolo curdo. In collegamento telefonico abbiamo Tiziana Triana, editrice per la Fandango ed editrice di Pinar Selek in Italia, che conosce Pinar, conosce la sua storia, conosce anche la Pinar intellettuale oltre che attivista, e quindi insomma, benvenuta Tiziana. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Allora, come appunto pensavamo, dicevamo prima, la Fandango si è già ha pubblicato già a novembre, quando questa storia appunto dell'annullamento della sentenza è stato reso pubblico, ha già pubblicato appunto un racconto di quello che è la vicenda giudiziaria di Pinar, e quindi è in prima linea per supportare Pinar e insomma, per accompagnarla in questa nuova sfida. Sì, assolutamente, e noi appunto conosciamo Pinar da qualche anno ormai, abbiamo già pubblicato 4 dei suoi libri, ne ha scritti di più, e continueremo ovviamente a portare le sue parole in Italia. Le sue parole, sappiamo, sono, diciamo, vengono lette non soltanto in Italia ma in molti altri paesi europei, la Germania, dove anche ha risieduto per un certo periodo di tempo quando si è allontanata da Istanbul, in Francia ovviamente, e anche in Turchia. I suoi libri sono tutti pubblicati in Turchia e tuttora in commercio, e questo è una delle, diciamo, per me delle ragioni più incredibili di questo processo, che noi continuiamo a dire kafkiano, perché è una delle parole che ci vengono più in mente, perché effettivamente è una delle cose più vicine a quel termine che possiamo immaginare. Basta ripercorrere la storia di questo processo, i continui annullamenti e condanne, i continui falsificazioni di prove, falsificazioni di testimoni, che è la cosa, no? Insomma, le testimonianze che sono state date sotto tortura e poi sono state ritrattate. Quindi diciamo che la vicenda di Pinar è veramente una vicenda assurda da quel punto di vista. E poi in realtà Pinar Selek come intellettuale esiste in Turchia, è un'intellettuale letta in Turchia, è un'intellettuale discussa, un'intellettuale che ha fatto tantissimo per il suo paese, e non soltanto. Prima la rappresentante appunto del comunicato, comitato italiano di Pinar diceva giustamente: lei ha fatto tantissimo per le donne, per gli emarginati, per i curdi. Lei è un intellettuale che lavora non soltanto per se stessa e per il suo popolo, lei lavora per, diciamo così, il popolo del mondo, e lo dice: io non sono cittadina turca, o comunque non soltanto, io sono cittadina del mondo, il mio paese è il mondo. E questo è anche un po' il suo modo di intendere la possibilità, diciamo, di internazionalizzazione della lotta, chiamiamola così, che per lei è semplicemente la possibilità di instaurare reti fra persone, donne, perché sicuramente le donne sono il suo primo interlocutore privilegiato, per poter portare avanti un discorso di miglioramento del mondo per tutte e per tutti. Ecco, questa è una delle cose che mi ha sempre più affascinato e emozionato di Pinar. Noi abbiamo avuto Pinar ultimamente in Italia, lei è stata invitata il 20 novembre da parte della Fondazione Feltrinelli nell'ambito del premio Inge Feltrinelli, e ha fatto un bellissimo dialogo con Adriana Cavarero sulla dissidenza, proprio sul significato della dissidenza e del femminismo. E vi assicuro, la sua forza, la sua energia e il suo modo di coinvolgere le persone che la stavano a sentire non aveva sembrava non aver risentito per niente della notizia che c'era stata poco prima, cioè dell'annullamento della sua assoluzione, perché comunque Pinar riesce a mantenere sempre forte e vigorosa la sua voglia di lottare, e noi ovviamente come suoi editori in Italia non possiamo che fare, diciamo, quello che lei ci chiede e che chiede a tutte e a tutti, cioè di sostenerla in questa forza, di aiutarla in questa forza, e proveremo a farlo con i nostri mezzi, ovviamente tenendo per i nostri mezzi per quello che possiamo fare, quindi tenendo vivi i suoi libri, cercando di aiutarla nella visibilità, perché in questo momento la visibilità può essere una tutela, può essere una protezione, perché come avete detto giustamente prima, la cittadinanza francese non la protegge in maniera totale, proprio perché oltre alla diciamo condanna all'ergastolo c'è stato un mandato d'arresto immediato internazionale. Ecco, per tutelarla probabilmente l'unica cosa che la può aiutare in questo momento è dare grande visibilità alla sua lotta, che è quello che cercheremo di fare come editore. Sì, infatti allo stesso modo come si attiva la casa editrice Fandango, dicevamo all'inizio di questo intervento, si riattivano i comitati che erano nati insomma all'inizio di questa vicenda e che speravano di non doversi rivedere più, che invece appunto stanno cominciando in tutta Europa a diciamo riattivarsi e a proporre, come dicevi te poco fa, diciamo possibili modalità di evidenziare quello che sta succedendo e per diciamo attirare la luce dei riflettori rispetto alla sua vicenda, che in questo momento è probabilmente la cosa più importante da fare, in sostanza. Esatto. Visto che quello che sta accadendo è molto grave, ed è anche importante, come ricordavi tu, diciamo sottolineare, lo abbiamo fatto prima, lo risottolineiamo, che è appunto per il suo attivismo e per il suo credere nel processo di pace e di demilitarizzazione, per il suo, diciamo, le accuse, diciamo il suo sostenere il popolo curdo, rivelare quello che al popolo curdo era stato fatto, è questo, diciamo, la base sulla quale si fonda l'odio nei suoi confronti. E questo paradosso che mettevi in evidenza, che è molto importante rispetto all'odio dell'attivista verso Pinar, e poi appunto il sostegno in qualche modo anche vendendo i suoi libri in un paese che vuole mandarla al carcere a vita. Insomma, è veramente un paradosso completo che proprio non ha nessuna via d'uscita. Bene, se non ci sono altre domande, io ti ringrazio, Tiziana. Insomma, ci sentiamo presto, speriamo di sentirci con qualche notizia, positiva. Ti ringrazio, grazie a voi. Una buona giornata. Grazie. Grazie, a presto. Allora, siamo in collegamento con Lea Nocera, docente di lingua e letteratura turca all'Università Orientale di Napoli. Ciao Lea. Ciao, buongiorno. Ciao. Allora, ti sentivamo, ti contattavamo e volevamo chiacchierare con te, diciamo, abbiamo introdotto, non so se hai avuto modo di sentire, insomma, la vicenda e quello che sta succedendo. Abbiamo parlato con Tiziana Triana, editrice per la Fandango italiana delle opere di Pinar Selek. Volevamo parlare con te per farci raccontare un po' meglio, visto che nella lettera che abbiamo letto anche di Pinar e negli altri comunicati si accenna a quella che è la situazione attuale in vista delle prossime elezioni in Turchia, quindi insomma un clima molto di tensione, e che magari appunto tu puoi raccontarci sicuramente meglio. Sì, sì, effettivamente, diciamo, la vicenda di Pinar, che è lunghissima, è proprio un esempio dell'accanimento giudiziario, o meglio di come si usa il tribunale, la legge, per accanirsi su alcune persone che hanno avuto dei ruoli attivi e hanno dei ruoli attivi nella società turca. In realtà è un po' la punta di un iceberg di una situazione che è particolarmente drammatica, perché la repressione in Turchia sono anni, ma diciamo negli ultimi tempi si è aggravata, e soprattutto prende di mira in particolar modo delle attivisti e attiviste che operano in vari campi in Turchia. Questo già sta succedendo, diciamo, negli ultimi anni, insomma era già successo anche già prima della pandemia, ma in questo momento questa situazione sta raggiungendo dei livelli iperbolici, perché ci sono queste elezioni a giugno 2023, che sono delle elezioni politiche, elezioni presidenziali, e che cadono nell'anniversario del centenario della Repubblica Turca. Dato che c'è, diciamo, storicamente c'è il nazionalismo, cioè passa per tutta una serie anche di simboli che il presidente attuale della Repubblica, Erdogan, da anni sta utilizzando, e che ha sempre dato peso a questo 2023 per, come anno di rifondazione di quello che lui chiama la nuova Turchia. Quindi queste elezioni sono particolarmente rilevanti, cioè tutte le elezioni in Turchia sono sempre state importanti negli ultimi anni, tra l'altro viene data molta fiducia anche dalla parte, diciamo, progressista del paese alle elezioni come veramente una possibilità, seppure in un contesto molto pesante, violento, insomma repressivo. Alle elezioni viene sempre data molta fiducia perché come un momento di cambiamento, ma in queste elezioni in particolare lo diventano perché molti anche lo dicono in Turchia, diciamo, se vincesse di nuovo questo presidente, che attualmente ha anche meno consensi di quanto non abbia avuto in passato, è anche un po', diciamo, in crisi, come dire, il suo partito e la sua figura tutto sommato, se non vincesse potrebbe veramente esserci il baratro. C'era un film molto interessante di un documentarista turco che si chiama Sull'orlo dell'abisso. Ecco, la Turchia sono anni che sta sull'orlo dell'abisso, durante questo di questa posizione, però la gente, come dice anche Pinar, continua a resistere e a fare cose, a uscire per strada. L'esempio sono le femministe che a novembre sono uscite e comunque si sono ritrovate circondate dalla polizia, non ci sono stati 200 arresti. Quindi, diciamo, questo il contesto di oggi, è che abbiamo in carcere da anni condannati all'ergastolo, per esempio, una serie di attivisti che sono stati accusati, con una costruzione di un vero e proprio teorema politico, di essere elementi grigie dietro le proteste di Gezi Park, che tutti quanti ricorderemo come uno dei momenti storici, diciamo, di opposizione aperta, di insurrezione in qualche modo contro il governo. Ecco, ci sono per esempio tutte queste persone. Ultimamente è stata arrestata una documentarista che stava facendo un documentario sul un massacro, che c'era stata una bomba fatta esplodere ad Ankara durante un'amministrazione della pace. Cioè, ci sono poi tantissimi curdi, che cioè quello che era stato il fondatore del partito progressista filo curdo, Selahattin Demirtas. Tra l'altro c'è un bellissimo libro in Italia che si chiama Alba, su un romanzo che ha scritto in carcere, che sta in carcere da anni. Cioè, quindi ci sono tutta una serie di attacchi mirati, e dopodiché anche una situazione di repressione anche attraverso delle leggi, per esempio sul controllo dell'informazione, chiamate, diciamo, in maniera quasi ironica leggi contro le fake news, che sono praticamente delle misure, dei provvedimenti che fanno sì che non si può più nemmeno esprimersi liberamente, ancora peggio di prima, anche sui social. Cioè, tutti sono sono, diciamo, in un contesto che potrebbero essere da un giorno all'altro arrestati, messi sotto processo. E la bomba che esplosa a Istanbul il 14 novembre, per esempio, è un esempio proprio molto preciso del clima che si respira in Turchia. Tra l'altro devo dire, in Italia purtroppo c'è stata un'analisi veramente pessima, cioè sono state prese solamente le posizioni filogovernative nell'informazione italiana, mentre anche in Turchia, anche persone, diciamo, meno legate agli ambienti progressisti o critici, per tutti era abbastanza evidente che fosse una bomba all'interno di una strategia della tensione che viene periodicamente, puntualmente messa in campo quando stanno per arrivare le elezioni. Nessuno era sorpreso, forse ci si sorprendeva che fosse arrivata a novembre, perché non, diciamo, qualche mese più tardi, ma la cosa paradossale è che in Turchia tutti si aspettano le bombe e gli attentati prima che avvengano le elezioni politiche, perché ovviamente anche questi attentati fanno sì che ci sia ancora di più diciamo ci sia formalmente un motivo per esempio applicare il coprifuoco, per impedire le manifestazioni, anche manifestazioni pacifiche, per fare perquisizioni nelle case e soprattutto per costruire ancora di più e rafforzare un discorso nazionalista, militarista, che poi alla fine è il discorso contro cui Pinar prima di tutti si è battuta. Perché se posso aggiungere una cosa, la questione di la figura di Pinar, no, che è un po', diciamo, chi si occupa di Turchia un po' non è che non se la dimentica, però effettivamente si è molto presa a seguire l'attualità e le persone e gli arresti continui che vengono fatti oggi. Però la figura di Pinar è abbastanza, diciamo, significativa con la sua vicenda, perché è come dire precedente a questo governo, ed è perché c'è questo accanimento, perché fondamentalmente lei è stata una delle prime figure, tra l'altro una donna, che ha fatto uscire fuori, ha rotto tutti i tabù che erano i tabù della Turchia. Cioè lei ha cercato di fare un discorso di un altro tipo rispetto ai curdi, facendo anche amicizie, cioè proprio con i curdi, ha fatto una femminista di un certo tipo, cioè una femminista della nuova ondata nata dopo gli anni Ottanta, comunque per l'ecologia sociale radicale, che cercava di mettere anche nella pratica tutta una serie di discorsi, fortemente antimilitarista, per cui anche questo, diciamo, Turchia, che è un paese che ha fondato la sua cultura sul militarismo e sull'esercito, anche questa è anche una visione di rottura. Per esempio, se si pensa anche, no, alle posizioni rispetto al PKK, cioè, no, Pinar Selek ha scritto il primo libro per la quale fu anche messa all'indice, era un libro che metteva criticava fortemente l'esperienza, per esempio, l'esperienza del nonismo, del servizio militare tra i curdi, con i curdi, e anche, diciamo, le vicende dentro, diciamo, di questa logica militarista che c'è. Però Pinar Selek era una persona apprezzata da Ocalan, cioè tant'è che ha costruito tutta un'operazione di linciaggio ai tempi per metterla all'indice nel paese. Quindi lei poi è stata una delle prime a parlare della questione armena all'interno da turca, perché questo bisogna, è la cosa particolare, che lei è un po' considerata, come si dice oggi attualmente, per tutti quelli che lavorano all'opposizione del governo, come una traditrice della patria, perché è una turca, è vero, di una famiglia progressista di sinistra, ma è turca, non è curda di suo, e però ha lavorato su tutti i punti che lo Stato ha cercato sempre di nascondere, occultare, o certo, attaccare. Sì, e agli armeni, per esempio, ieri è stato l'anniversario dell'omicidio di Hrant Dink. Hrant Dink è una figura eccezionale, che era un giornalista turco-armeno che è stato ammazzato 16 anni fa, è stato ammazzato e poi sono venute fuori, ancora non è finito il processo, ma sono venute fuori tutta una serie di connivenze dietro questo omicidio. Ma era, per esempio, una figura come Pinar, una figura che cercava di rinnovare un discorso, facendo, diciamo, attraversando anche i traumi che ci sono stati nel paese, ma rinnovando verso una conciliazione che fosse completamente, diciamo, non una conciliazione come dire nella dimenticanza, ma una conciliazione per costruire un nuovo tipo di società. Ecco, Hrant Dink, per esempio, una figura, ieri era il 16° anniversario della sua morte, e in questa occasione ci sono sempre delle grandi manifestazioni a Istanbul sotto la sede di quello che era il suo giornale. Hrant Dink era diventato un carissimo amico di Pinar Selek, lei lo scrive in un suo libro, lo racconta in un suo libro, e si apprezzava nel lei, insomma, quindi anche fa il suo ruolo, si assume la sua posizione, diciamo, tra virgolette, di privilegio di turca, quindi di patale fuori dalla comunità, per portare avanti queste posizioni. Ed è anche per questo che c'è questo accanimento, anche oggi, diciamo, in cui probabilmente non è l'oppositrice, perché lei sta 20 anni in Francia, no? Non è un'oppositrice diretta, ma perché in realtà il suo pensiero, il suo modo di agire, il suo modo di fare pratica politica, sono considerati estremamente pericolosi e quindi devono essere, diciamo, come dire, attaccati, cancellati, annullati. Ecco, secondo me questo, diciamo, proprio per costruire un po' un piano del tra l'oggi e la situazione di PNAR. Sì, infatti, insomma, intanto ti ringraziamo perché sei riuscita un po' a sintetizzare e a farci il quadro non solo della situazione attuale, ma sicuramente chiarendo in maniera precisa il motivo per cui PNAR Select è in qualche modo protagonista di questo accanimento da 25 anni, insomma, quello che lei rappresenta appunto come attivista radicale, impegnata in molteplici aspetti che mettono in discussione, in crisi, gli orrori su cui si basa in sostanza la Turchia e i vari governi, perché appunto, come dicevi, in realtà poi questa persecuzione è stata ereditata in qualche modo. Volevamo ricordare che, insomma, per chi volesse approfondire, per chi volesse anche saperne di più, c'è una rivista online che si chiama Kaleidoscope, che hai fondato nel 2017, che parla appunto della Turchia, della cultura, della società, e che appunto dirigi in questo momento, Lea. Sì, Kaleidoscope è una rivista online, abbiamo fondato, siamo una piccola redazione, tra l'altro siamo tutte donne, è una rivista che di fatto, diciamo, si chiama, cioè il sottotitolo è Turchia, cultura e società, è una rivista che per scelta, diciamo, ha deciso di portare in Italia la testimonianza di quello che avviene nell'ambito culturale, soprattutto turco, perché l'ambito culturale è un ambito in cui, diciamo, si fa molta politica, cioè è l'ambito in cui per esempio si legge tutta la resistenza, l'opposizione, quindi noi è una rivista che promuoviamo tutto ciò che si fa a livello indipendente in Turchia, e noi siamo stessi una rivista indipendente, quindi abbiamo molti contatti con la Turchia che ci mandano anche materiali, eccetera, e l'idea è far conoscere tutto ciò che c'è di resistenza nel paese. Quindi non è una rivista, diciamo, che dà notizie, diciamo, lasciamo stare i kilim e le moschee sul Bosforo, che possono avere anche il loro fascino, ma noi cerchiamo di raccontare per esempio la censura nel cinema, quello che però anche il cinema cosa racconta oggi, oppure tutta la situazione delle comunità, delle minoranze. E nella nostra rivista è possibile trovare anche dei materiali che raccontano la presenza anche di PNAR in Italia o che raccontano del suo lavoro. Stiamo infatti anche per pubblicare la lettera che ha scritto ora alla luce di questa sentenza terribile che è giunta in maniera definitiva all'inizio di gennaio. Perfetto. Si trova online ed è aperta, un Kaleidoscope che si scrive con due K, e la K, insomma, al posto della K italiana, e .it è online. Perfetto, allora intanto ti ringraziamo moltissimo, Lea Nocera, docente di lingua e letteratura turca all'Università Orientale di Napoli, per il tuo intervento, per averci chiarito anche degli aspetti importanti per capire meglio questa vicenda. Kaleidoscope è la rivista online che potete consultare anche per contattare direttamente quello che succede in Turchia, e quindi come la cultura e l'incrocio della cultura con la resistenza politica si manifesti. Grazie mille e grazie a voi. Mettiamo un po' di musica, grazie. hakkım Beş nafitos peşte bakım Banca hilaç kaler hakkım Kan fartı kaç kaleş شو کاشه باران دوباره هوا خوشه آرب میره کتی که بمیشه رو جم جندان دیگان خوشه رو دو ببه وست داکم بجنا که تاز پشت باکم وان جاهیل انش خوه راکم وان خورتک انش خوه شاکم E allora torniamo in onda, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, questi sono gli 87.9, sapete tutti i riferimenti, ondarossa.info, il sito di riferimento, 0649 1750 per intervenire qui in radio telefonicamente. Abbiamo utilizzato questo spazio di approfondimento questa mattina dedicato alla scrittrice, attivista, intellettuale Pinar Selek, che come ricordavamo all'inizio, abbiamo ricordato varie volte in questo intervento, ma insomma in questo approfondimento, ma lo ricordiamo, a cui è stato notificato il 6 gennaio di quest'anno un mandato di cattura internazionale in vista del quinto processo che ci sarà a marzo, e quindi insomma processo che ovviamente è stato aperto perché i precedenti, che erano tutti stati conclusi con una completa assoluzione di Pinar dalle accuse, sono stati annullati. Allora chiudiamo questo spazio, dopo aver sentito anche le nostre ospiti, con una rappresentante del Comitato Italiano di Sostegno e Solidarietà a Pinar, che lancerà l'appuntamento della prossima settimana, insomma con il quale ci lasceremo. Sì, quindi volevo ricordare appunto l'appuntamento che ci siamo date questo lunedì 23 gennaio alle 8 di sera a Via dei Ciceri 131 presso il Nido di Vespe, quindi siete tutte e tutti insomma invitati a partecipare e cercheremo insomma in questa giornata, in questa serata, di pensare delle iniziative possibili per dare più visibilità, insomma più voce insomma possibile a quello che sta accadendo e a Pinar, per cercare insomma di fermare insomma questa persecuzione è davvero senza fine, ma a cui vogliamo mettere una fine. E ovviamente la radio, come sua vocazione naturale, sarà amplificherà tutto quello che poi verrà fuori da questo diciamo da questa assemblea e tutte le possibili modalità di diciamo di per mettere in luce quello che sta accadendo e per attirare più possibile l'attenzione internazionale su quello che è la vicenda di Pinar. Intanto vi salutiamo, ma restate in ascolto di Radio Onda Rossa. Fra pochi minuti uno speciale, un'edizione speciale delle Ore di Religione, una puntata dedicata alla dipartita di Ratzinger, insomma, quindi restate in ascolto di Radio Onda Rossa. E allora torniamo in onda, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, questi sono gli 87.9, sapete tutti i riferimenti, ondarossa.info, il sito di riferimento, 0649 1750 per intervenire qui in radio telefonicamente. Abbiamo utilizzato questo spazio di approfondimento questa mattina dedicato alla scrittrice, attivista, intellettuale Pinar Selek, che